ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Sono le 8, 18 minuti e 38 secondi. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 Mattino. È martedì 6 ottobre, al microfono sempre Simone Spezia. Più avanti, alle 8.35, ci occuperemo di riforma fiscale e di cartelle esattoriali. Perché non è arrivato il rinvio che partite IVA, piccole imprese e anche semplici cittadini si aspettavano, nel quale speravano. E dunque dal 16 ottobre, pur con calma, ha detto il ministro dell'economia Gualtieri, qualsiasi cosa voglia dire, riprenderà la riscossione delle tasse. Ed è presumibile che le questioni sono due, no? Sono due schieramenti, se così vogliamo dire. Da una parte le persone, le aziende piagate dalla crisi economica portata da Covid e che non è detto che abbiano la liquidità per pagare le tasse che devono pagare adesso, e dall'altra parte lo Stato che deve incassare a rischio di trovarsi un buco nelle casse, per quanto siano saltati molti schemi su questo fronte nell'ultimo periodo. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta e dire la vostra. Adesso è il momento dello spazio con il nostro Paolo Mieli. Buongiorno Paolo, eccoci. Buongiorno, come stai? Ah, abbastanza bene, grazie, abbastanza bene. Mi sembra meglio di noi stia Nicola Zingaretti, che ottiene Nicola Zingaretti è il suo, è la sua giornata, bisogna dargliene atto. Oggi porta a casa, senti, la modifica dei decreti Salvini. Finalmente, dopo un anno e un mese, un anno e due mesi, quella cosa che ha sempre annunciato, ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il là. Adesso poi bisogna vedere nel merito, perché non sono stati buttati completamente a mare, è una parziale modifica, però una modifica importante. Poi soprattutto, era per questo che tu mi hai tirato in ballo Zingaretti, hanno vinto bene l'alleanza PD 5 Stelle, ha vinto bene le amministrative. Centrodestra ha perso Lecco, l'ha persa i 31 voti, per cui sono subito ricorsi, però Lecco, sai, è un posto importante per il centrodestra, per la Lega. Poi hanno perso Chieti, hanno perso Andria, e il centrosinistra ha vinto un po' dappertutto. Soprattutto la sfida più importante era quella di Reggio Calabria, dove sembrava che la Lega potesse sfondare. E poi ha vinto anche il Movimento 5 Stelle, che porta un sindaco a Matera, e il famoso sindaco di Pomigliano è la patria di Di Maio, Gianluca Del Mastro, che è riuscito a vincere anche lì. Questa cosa qua, adesso a parte tutto l'elenco dei comuni, significa che ormai la via dell'alleanza, almeno per le amministrative, visto che si voterà in primavera a Torino, Milano, Roma, in un sacco di amministrazioni, la via dell'alleanza PD 5 Stelle mi sembra ormai spianata, e quindi sono anche fatti fuori quelli come Di Battista, che diceva che questa alleanza è la morte nera del Movimento 5 Stelle, e Casaleggio, al quale poi leggo sui giornali che fanno addirittura causa, perché sì, lui possiede una guerra pazzesca, 100, sì, perché la piattaforma possiede i nomi di quei 170.000 iscritti che votando possono modificare la linea del partito. Loro dicono, il Movimento 5 Stelle dice, li vogliamo indietro, vogliamo conoscerli, sapere chi sono, li vogliamo nuovi, perché li hanno tutti i numeri e i recapiti, e quindi c'è una nuova guerra. Sempre stando in politica, se vuoi, si è dovuta dimettere l'ex senatrice Angela Maraventano, quella che, sostenendo Salvini a Catania, aveva detto che la mafia non ha più la sensibilità e il coraggio di una volta. Insomma, dava un attestato retroattivo a sensibilità e coraggio alla mafia. Alla mafia. Paolo, viene fuori con questa vicenda Casaleggio quello che è stato fin dall'inizio un po' il paradosso del Movimento 5 Stelle, no? Ossia che gli iscritti fossero di fatto, i nomi degli iscritti e i dati degli iscritti fossero di fatto nelle mani di un'azienda privata. Che il problema che si è tirato fuori all'inizio è che improvvisamente i garanti del Movimento 5 Stelle scoprono ora. La cosa buffa è che a tirarlo fuori, a parte degli opinionisti, ma era stato soprattutto il PD che aveva puntato il dito durante tutto l'anno di governo Lega 5 Stelle contro questo modo privato di avere in mano un partito. E a proposito, scusami, però non possiamo dimenticare che a proposito di successi di Zingaretti, ieri ha portato anche a casa la nomina di un suo ex parlamentare importantissimo, era un parlamentare prima d'Alemiano, poi non più d'Alemiano, Nicola Latorre, che è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Industria e Difesa. Sì. E quindi ha fatto proprio il bottino pieno, anche la nomina di un ex parlamentare. Ne parlavamo l'altro giorno. Sei contento? Ne parlavamo l'altro giorno commentando il pezzo di Sergio Rizzo. Gli ex parlamentari tendono a cadere in piedi, un po' da tutte le parti. Questa storia di Nicola Latorre, pensa Paolo, qua stavo guardando, è contenuta nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, che è di 10 pagine. Ma l'ultima riga, sono le ultime due righe che Guerini ma nomina. Ma noi non sfugge nulla. Non sfugge nulla. Sappiate che l'Agenzia Industria e Difesa, no, lo dico agli ascoltatori, fa parte del Ministero della Difesa, è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito come strumento di razionalizzazione e ammodernamento delle unità industriali del Ministero della Difesa, quindi un ruolo rilevante per Nicola Latorre. Complimenti a Nicola Latorre e complimenti anche a questa trasformazione, per cui quella che era un tabù, la nomina di ex parlamentari alla guida di istituzioni, direzioni generali, agenzie, non è più un tabù. Sento un filo di sarcasmo su questo. Senti Paolo, cos'altro hai notato? Camillo Ruini, visto che c'è tutta la questione del Vaticano aperta, ne abbiamo parlato, non torniamo, anche perché ci sei tornato già tu, sulla storia di quella donna che oggi appassiona tutti i giornali, Cecilia Marogna, la sarda che spendeva 500.000 in borse di Chanel, ma lei si difende, non è vero, io venivo pagata per il mio lavoro, amica di Becciu. Ma Camillo Ruini interviene con tutto il suo peso. Oggi Camillo Ruini, se vogliamo, non conta più niente, è un libero pensatore, però tutta l'Italia lo ricorda, lui ha 91 anni, è stato il capo della CEI, insomma è stato un personaggio importantissimo e oggi dice un sacco di cose interessanti. Intervistato da Aldo Quazzullo sul Corriere della Sera, pagina 23, dice che lui, che i cattolici italiani sono un po' sottorappresentati, criticare Papa Francesco non significa essergli contro, e poi parla anche di politica, dice che lui ha votato no al referendum, che Conte alla guida di un partito ispirato alla visione cristiana lo fa sorridere, che la leader dei Fratelli d'Italia Giorgia Meloni oggi è con merito sulla cresta dell'onda, e poi che la riforma nel senso proporzionale è sbagliata e soprattutto pericolosa. Camillo Ruini c'ha una strana storia di amicizia e scontro con Romano Prodi, nel senso che i due sono stati molto amici quando erano più giovani. Sì. Camillo Ruini ha 10 anni più di Prodi, ma insomma lo ha sposato, poi si sono scontrati molto fortemente nell'epoca in cui Prodi era al potere, e adesso alla fine la pensano uguale, hanno votato tutti e due no al referendum, tutti e due sono contro la proporzionale, vedi, strani casi della storia che ti fa ricongiungere, e ripeto, è importante perché è una personalità che ha il suo peso nel mondo cattolico, anche se dal punto di vista organizzativo non conta più niente, si scontrano bestialmente i monsignori Vincenzo Guoxing e Zhang Silu in Cina. Zhang Silu era quel vescovo scomunicato dal Papa, poi riabilitato, che in omaggio a quel rapporto con la Cina che è stato molto criticato da Trump. Quale Trump, hai visto stanotte, sì, è tornato alla grande, sì, a dire uscite senza mascherina. Vabbè, tranquilli, non c'è problema, il Covid. Per un giorno lasciamolo stare, comunque i suoi comportamenti stanotte vedrai che saranno sulle prime pagine di tutti i giornali domani. E a proposito di di virus, ho notato che è stato dato il Nobel a 3 virologi, un inglese e 2 americani, per delle scoperte sull'epatite C, e la riflessione che fanno, leggeteli gli articoli su questo Nobel per l'epatite C, perché dicono che l'epatite C non si è trovato il vaccino come l'AIDS, però si sono trovati farmaci potenti che lo possono combattere. Sì. Io mi sono fatto la convinzione che la via da battere, più che quella di trovare un improbabile vaccino, lo giudico, è quella di trovare dei farmaci che ti evitano. Se contrai il Covid, così come l'epatite C, così di sopravvivere. Questa è un'idea mia, ma la tengo. Senti, Paolo, a proposito dei cattolici. Ho visto che si stanno riformando partiti cattolici come se piovesse, tentativi, non sì, dico di rifondare la DC. Fioriscono come funghi, bravo. Ma non solo si stanno riformando, adesso ce n'è uno nuovo di Stefano Zamagni, un partito centrista, ma addirittura ha trovato 2 garanti d'eccezione, Antonio Fazio, l'ex governatore della Banca Italia, e il cardinale Giovanni Battista Re. Io lo suggerisco a tutti gli ascoltatori, di qui alle elezioni politiche possono tutti dilettarsi nel fondare un partito di centro, perché ce ne stanno già una decina e secondo me ora che si arriva alle elezioni saranno un centinaio, ci si diverte, poi non presentatevi alle elezioni perché prenderete lo 0%. Però un partito di centro, oppure un po' come l'area, Paolo, un po' come l'area liberale, no? Se ne formano, un po' la stessa cosa. Tutti dicono, siccome si torna proporzionale, la DC era un partito di centro, prendeva la maggioranza relativa e talvolta quasi assoluta dei voti, formiamo un partito di centro. Ai nostri ascoltatori, formate un partito di centro, c'è da divertirsi, sollazzarsi, si può ottenere l'appoggio di grandi personaggi come Antonio Fazio e il cardinale Giovanni Battista Re. Se non hanno voglia di fondare un partito di centro, come alternativa c'è una marcia dei sovranisti a Roma il 10 ottobre. Sì, me lo sto segnando, per la prima volta, me lo sto segnando, 10 ottobre. Okay. Io do tempo anche agli ascoltatori, sovranisti di destra e di sinistra, guidati dal filosofo Diego Fusaro, la senatrice Sara Cugnal, che è una senatrice del Movimento 5 Stelle, e ha aderito, questo sarà il pezzo forte, Enrico Montesano, che dice che lui guiderà eretici guerrieri, lo dico tra virgolette, a una marcia della libertà. Quindi c'è un'ampia scelta, o formare un partito di centro e ottenere adesioni importantissime, oppure se uno proprio non ha niente da fare, il 10 ottobre mi sembra che sia sabato, è possibile, insomma, se uno non ha niente da fare il 10 ottobre, a proposito, il 10 ottobre è il giorno finale della caducazione, raccomando. Sì, è vero, dobbiamo tenere presente il giorno della, il giorno, tu, nel giorno della caducazione di autostrade, cioè, il giorno della caducazione, il giorno in cui si fa la revoca annunciata da mesi e mesi, sempre con ultimatum, tu ti sei impegnato a sorvegliare che sia fatta la caducazione il 10 ottobre. Se non viene fatta la caducazione il 10 ottobre, devi andare anche tu alla marcia di Enrico Montesano, Diego Fusaro e la senatrice Cugnal, alla marcia dei sovranisti di destra e di sinistra. Di destra e di sinistra. Mi segnalo giustamente che la Cugnal non è più 5 Stelle, è vero, ha lasciato il gruppo. E dico come solo siete una cosa, fiscali, Paolo. Guarda Radio 24, cioè, sono terribili i nostri ascoltatori. Sui movimenti della senatrice Cugnal siete proprio veramente terribili. Sommessamente, Paolo, dico, non ridiamo troppo sui comici che fanno politica, perché l'ultima volta abbiamo visto com'è andata. Si è preso il paese, l'ultimo comico che è entrato in politica si è preso il paese. Caro Paolo, ci sentiamo domani dopo il GR delle 8. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Con l'incognita della crescita dei contagi e dei ricoveri, pur con le tensioni che su questo fronte stiamo attraversando, bisogna guardare ovviamente all'economia e all'andamento dell'economia. Lo ha fatto e lo fa la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza approvata ieri, che è di fatto la cornice di conti pubblici, la cornice economica e macroeconomica nella quale poi andrà innestata la legge di bilancio per l'anno prossimo. Lo si fa guardando al futuro con per esempio il Made in Italy che prova a ripartire. Oggi, da oggi per i prossimi tre pomeriggi, il Sole 24 Ore insieme al Financial Times avranno un appuntamento dedicato a questo, che si intitola There a Start. Saranno ospiti, ci sarà il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il ministro Patuanelli e altri ministri, esattamente per parlare di questo. E però poi ci sono problemi cogenti di stretta attualità, di stretta gestione di cassa per le aziende. Vi leggo, leggo tra l'altro una mail che ci arriva da Luciano, da Chieti, è arrivata proprio pochi istanti fa. Dice: sono uno dei tanti che ha delle rateizzazioni con l'Agenzia delle Entrate. È vero che parliamo di tasse dovute pre-Covid, come dice il ministro Gualtieri, che lo ha detto ieri, ma mi deve spiegare dove andiamo a prendere i soldi, visto che abbiamo ridotto del 50% il fatturato. Ho anticipato la cassa integrazione ai miei dipendenti, al momento mi hanno rimborsato solo i mesi di marzo e di aprile. Di cosa parliamo? Parliamo delle cartelle esattoriali che a partire dal 16 ottobre ripartiranno pur con una sorta di calma, no? Con il ministro Gualtieri che rassicura e dice abbiamo chiesto all'Agenzia delle Entrate di andarci piano. Buongiorno Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia. Baretta, eccoci. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Cosa vuol dire questo andare con calma, dato questa indicazione data all'Agenzia delle Entrate? Vuol dire che noi c'è chiaramente la coscienza, la preoccupazione del fatto che i pagamenti anche degli arretrati delle tasse sono un problema per le imprese in questa situazione difficile, però al tempo stesso ci sono stati 40 miliardi in meno di entrate quest'anno per le giuste ragioni di sospensione dei pagamenti, e c'è stata una manovra da 100 miliardi. I dati di ieri sull'economia che abbiamo dato col DEF sono dati preoccupanti, siamo a meno 10, meno 9 di PIL, sperando che non peggiori la situazione sanitaria. Quindi il quadro non è facile per nessuno, non è facile per le imprese, non è facile per lo Stato, che è la grande impresa nazionale. Quindi in questo senso si va incontro il più possibile a una sorta di lentezza nel riscuotere, ma bisogna mettersi nell'ottica che comunque anche le entrate pubbliche devono riprendere, perché poi dietro questo ci sono le spese per la sanità, le spese per le pensioni, le spese per la vita collettiva. Quindi è un problema proprio di reciprocità. Sono un po' i due fronti, l'abbiamo rappresentati anche prima. Cioè, da una parte c'è l'esigenza delle imprese, la difficoltà delle imprese, delle partite IVA, e dall'altra parte c'è lo Stato che è vero che un po' di cose, adesso ci arriveremo, Baretta, magari proviamo a richiamarla, perché devo dire che l'audio è veramente indecoroso. Diciamo appunto, come dicevo, i due fronti sono questi. Saluto Patrizia De Luise, buongiorno, di Confesercenti, bentornata ai nostri buongiorno microfoni. A voi. Eccoci qua, il presidente di Confesercenti. De Luise, come se ne esce? Perché anche il discorso di Baretta ci sta, dice: vabbè ragazzi, qua però noi non abbiamo incassato 40 miliardi, in qualche modo i servizi li dobbiamo tenere in piedi, di debito se ne fa, ma fino a un certo punto bisogna tornare a riscuoterlo questo denaro. Cosa dici? Ma certo, anche perché voglio ricordare che l'impresa Stato, come diceva il sottosegretario Baretta, siamo noi, quindi abbiamo tutto l'interesse che funzioni nei servizi, però c'è un problema oggettivo. Le imprese di prossimità, nella fattispecie tutte quelle imprese legate al turismo, ai servizi, all'abbigliamento, tutte quelle imprese che sono rimaste chiuse durante il lockdown, non hanno lavorato, e anche adesso i numeri ci dicono purtroppo quanto sia difficile la ripresa. Sono imprese in difficoltà, quindi non ce la fanno oggettivamente a pagare. Ci sono state delle proroghe, ben vengano le proroghe anche al 31 gennaio 2021, però dobbiamo porci un problema di efficientamento anche nella riscossione, no? delle imposte, perché non si dice di non pagare, ma si dice di, tanto per cominciare, a pagare il giusto, ma questo è un altro tema che riguarda anche la riforma fiscale. Nella fattispecie, adesso dobbiamo evitare, uno, che ci sia un ingolfamento, perché le proroghe vanno bene, ma poi si vanno a ingolfare con le riscossioni ordinarie, e le imprese non possono farcela. La moral suasion nei confronti dell'Agenzia delle Entrate è così fatta, l'abbiamo già vissuta anche sì. Con le banche, no? Le banche si chiedeva di rispettare tutto quello che i vari DPCM dicevano, e poi sappiamo tutti le difficoltà che le imprese hanno avuto, perché poi bisogna scendere nel concreto, nel lavoro di tutti i giorni. Quindi probabilmente, l'abbiamo detto tante volte in questi Ma mesi. Quindi cosa vorreste, De Luise, ci vuole un'altra proroga secondo voi? Ma tanto per cominciare ci vuole una proroga finché non è finita questa emergenza, perché se le imprese non lavorano, non incassano, non hanno i soldi per pagare. E poi una volta che inizieranno a lavorare bisogna dargliele questi pregressi, oppure inventarsi una forma di mettere le imprese in condizioni di pagare, e vedere di fare una forma rivedere quello che è il quantum da pagare. Ma quello che è importante è che abbiamo detto e questo è veramente importante, abbiamo detto tante volte, ci troviamo a vivere una situazione straordinaria, un'emergenza straordinaria, e come tale la dobbiamo affrontare. E anche le misure, dice lei, il punto mi è chiaro, 800 24 00 24, adesso arriviamo, De Luise, torniamo da lei, 800 24 00 24, se vorrete intervenire. Senta Baretta, cioè, De Luise ci ha rappresentato un po' quello che è l'altro fronte, no? Dice questo: se voi ci costringete a pagare adesso, noi i soldi non ce li abbiamo, andiamo gambe all'aria e il risultato che ottenete è lo stesso, perché non paghiamo comunque. Mi sembra un po' questo il punto. Come si può mediare? Come si può arrivare ad un punto di mediazione? C'è un'idea da parte del governo? Ma intanto non è l'altro fronte, lo dico nel senso che effettivamente siamo tutti nello stesso fronte, perché come dicevo prima, poi alla fine noi dobbiamo pagare le pensioni, tenere in piedi la sanità, che peraltro ha avuto un incremento di costi ovvio in questi mesi, quindi è un circuito in cui tutti dobbiamo trovare una soluzione condivisa. Questa scelta che abbiamo fatto di dire all'Agenzia delle Entrate, gestisci in maniera molto graduale, parliamo delle cartelle vecchie pre-Covid, è una prima risposta. Secondo, non tutta la realtà è uguale, per fortuna. Abbiamo una delle ragioni per le quali noi abbiamo riscontrato che il 9% di PIL anziché il 10% qualcosa negativo è perché c'è stata una qualche ripresa economica in alcuni settori. Quindi troviamo un punto di condivisione di quelle che sono le vere emergenze, quelle che sono più gestibili, e su questo la linea della gradualità è la linea migliore che noi abbiamo, possiamo adottare, sapendo che in questi mesi ci sono stati interventi a fondo perduto, interventi per circa 100 miliardi. Ecco, lo dico per dire che le ragioni che vengono portate alle imprese sono chiarissime e giustificate, e bisogna tenerne conto, ma bisogna trovare una soluzione condivisa, e forse la gradualità è la migliore, perché c'è un equilibrio complessivo anche dei conti pubblici che francamente preoccupano a questo punto, e alla fine la ricaduta è sempre sui cittadini. Senta Baretta, intanto si ragiona sulla riforma fiscale, no? Della quale un primo passo dovrebbe essere l'assegno per i figli, o almeno dovrebbe essere inserito all'interno della stessa riforma fiscale. Ci conferma che state ragionando su il famoso modello tedesco, che è un prelievo progressivo su misura del singolo reddito, in sostanza? È una delle ipotesi, a me convince abbastanza. So che ci sono ovviamente anche legittime opinioni diverse, ma è un'ipotesi interessante, perché delinea una curva nella quale il rapporto tra il cittadino e il fisco è molto diretto. Oggi gli scaglioni comportano dei saldi in alcuni casi molto forti, soprattutto gli scaglioni intermedi. Quando si passa di scaglione si ha un aumento di tasse rilevante, anche se il reddito è stato superato di poco. Quindi la curva che consente di avere quasi un'aliquota individuale, forse è una risposta fortemente innovativa. Questo è un aspetto della riforma fiscale, l'altro è quello che diceva lei, cioè l'assegno unico per i figli, che in prospettiva dovrebbe diventare l'assegno per la famiglia, ma intanto cominciamo con questa soluzione che riguarda soprattutto le famiglie che hanno anche il carico dei figli, che sono un costo rilevante. Quindi due priorità, alcune delle quali, come l'assegno unico, può essere iniziato da subito. La ridisegno della curva ha bisogno di servono 6 miliardi, se non sbaglio, per l'assegno unico. Baretta, me lo conferma? I calcoli si stanno facendo, perché dipende sempre dai punti di partenza e qual è l'obiettivo reale. Noi l'anno scorso ne abbiamo messi due raggruppando alcune altre voci. Sicuramente servono cifre importanti. Non so dirle sinceramente se sei, perché già bisogna calcolare quello che è stato già inserito anche in quest'anno, però sicuramente sono cifre importanti, e soprattutto bisogna tener conto anche di una terza fascia, che sono gli incapienti, cioè le persone che non pagano le tasse perché non ci arrivano, e soprattutto dopo il Covid un incremento della povertà lo si teme. Dove li pescate questi soldi? Innanzitutto bisogna utilizzare al massimo le risorse europee, alcune delle quali vanno per investimenti, ovviamente, non tanto direttamente per questo. Esatto, lei sa che non ci può tagliare le tasse, lo sappiamo, no? Non ci si possono tagliare le tasse direttamente. Però se già abbiamo un respiro con i soldi europei per fare gli investimenti, possiamo. E poi credo che le alternative non siano molte, bisogna pensare a ulteriori tagli di spesa, che sono sempre molto relativi alla fine, perché bisogna tener conto che, come dicevamo prima, ci sono spese rilevanti. Per esempio c'è stato un rimbalzo sulla spesa di pensioni, che è un problema, anche se è giusto che le persone ce l'abbiano. Quindi forse il 2021 sarà un anno importante, proprio perché ci sarà da un lato la riforma fiscale da completare e dall'altro il superamento di quota 100, quindi è un anno molto impegnativo sia sul piano sociale che sul piano della revisione del sistema delle tasse. Abbiamo ancora Patrizia De Luise di Confesercenti. Mi dà un'idea, De Luise, di come è messo il vostro settore? In queste ore è circolata l'indiscrezione di una chiusura anticipata dei locali, ma insomma su quello dovremmo essere. Il governo, a quanto pare, ha deciso di non metterla in atto, sarà in atto in Campania. Mi dà un'idea di come state uscendo da questa fase? Ma è ancora un momento difficilissimo, i numeri lo dicono, le imprese che non riescono ad aprire, che hanno tentato di aprire ma non ce la fanno, i dipendenti, il numero dei dipendenti che non si riesce a richiamare al completo in azienda, insomma, teniamo conto che parliamo di piccole imprese, quelle che sono sul territorio, al servizio del territorio stesso. Però il problema è che l'emergenza è un'emergenza sanitaria, quindi direi che qui dobbiamo veramente fare tutti quadrato per fare un appello alla responsabilità di ciascuno di noi di rispettare quelli che sono le attenzioni e le accortezze per non ricadere in un aumento di questi contagi così forti, sì, che dovrebbero inevitabilmente poi fare. Ma questo aspetta anche a voi, aspetta anche a voi, De Luise. I contagi aumentano tanto e sono costretti a prendere determinate decisioni. Mi sente, Patrizia De Luise? Ovviamente non fanno bene all'economia delle imprese, perché già c'è un'economia fievole, perché non è che a Trento siano ripartiti i consumi. Però comunque un po' di lavoro lo si riesce a fare. Chiarissimo. Antonio da Torino, buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Ma Ma guardi, io volevo solo oggi è dura, prego Antonio, prego. Ma diciamo che dura da un po' di mesi, perché comunque le difficoltà ci sono. Sì. Ma volevo solo intervenire a proposito dell'affermazione del ministro riguardo al fatto che le tasse che sono state rateizzate precedentemente vanno comunque onorate. Io mi metto sono un dipendente, premesso, però mi metto nei panni delle aziende che avevano fatto un piano di rientro con una pianificazione di fatturato costante nel tempo. È ovvio che queste ditte si potrebbero trovare in forte difficoltà a rispettare un piano. Secondo la mia modesta opinione, quel debito deve essere pagato, erano tasse arretrate, giustamente, ma deve essere anche considerato il fatto che il piano potrebbe aver bisogno di una rateizzazione molto maggiore. Sì. Perché se prima pensavo di avere un fatturato 100 e quindi di essere in grado di pagare una rateizzazione, fatemi dire, di 10, adesso con un fatturato 50 o anche meno non sono sicuramente in grado di onorare una rateizzazione Antonio, di 10. Antonio, molto chiaro questo. Sottosegretario Baretta, si può pensare ad un intervento per estendere la rateizzazione, per dare un allungo alla rateizzazione? Il grande problema del bilancio è, come tutti i bilanci di tutte le imprese, anche quello statale, è l'equilibrio nell'arco dell'anno. È chiaro che se noi possiamo rateizzare, cosa che abbiamo già fatto, il più possibile verso la fine dell'anno, quando si scavalca l'anno diventa debito, e quindi questo bisogna tenerne conto, ed è lo stesso meccanismo che hanno le imprese. Però in ogni caso noi abbiamo anche annullato delle tasse, non soltanto le abbiamo rateizzate, per esempio una parte dei contributi, una parte del, diciamo, in questi mesi. Quindi il problema che ha posto l'ascoltatore è molto corretto, perché l'assenza di fatturato determina una differenza di approccio, ed è qui che bisogna trovare il punto d'incontro. Io penso che proprio anche con le categorie economiche, con i rappresentanti delle imprese, si possa trovare un'ulteriore strada. Adesso abbiamo una legge di bilancio in arrivo, e quella sarà l'occasione per un confronto proprio anche nel merito di come gestire le cartelle. Quindi vi confronterete con le parti, appunto, con le categorie, con le categorie anche su questo. È necessario, perché rappresentano gli interessi e quindi sono in grado di capire anche le diverse situazioni specifiche. Grazie Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Volevo sentire un altro ascoltatore, ma non abbiamo il tempo, dobbiamo chiudere. Grazie a Peter Bescapè in regia. Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca e i nostri autori, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6.30. Una buona giornata da Simone Spezia. Ciao. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.